America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano. Sono qui in Italia per qualche giorno, Mario Platero. Tempesta di neve a New York, devo dire molto anticipata. In genere in questa stagione la neve proprio non c'è, ma soprattutto nella regione settentrionale dello stato di New York, quella vicino ai laghi, nella regione di Buffalo. Per intenderci, la situazione è disastrosa. Ci sono quasi 2 metri di neve che poi col vento si sono accumulati, bloccando addirittura delle case, delle macchine, nelle autostrade, persone che hanno passato la notte, addirittura 2 notti bloccati in autostrada. I servizi di emergenza non riescono a raggiungerli, 7 morti, il governatore Andrew Cuomo, la situazione peggiorerà prima di migliorare. Insomma, se l'inverno, e non siamo ancora in inverno, parte così, non voglio pensare cosa sarà il resto dei mesi più difficili, gennaio e febbraio. Ma oggi voglio parlarvi d'altro, vi terrò informato, queste sono poi notizie di cronaca. Voglio parlarvi di un tema di fondo. Ieri vi ho ricordato che la famiglia di Bob Marley ha fatto un accordo con un fondo di private equity per cedere il marchio Marley Natural, Bob Marley era un grande fumatore di marijuana, a un fondo di private equity che vuole sfruttare la legalizzazione della marijuana commercialmente. E dunque ci vuole un brand, ci vuole un nome. E che cosa hanno scelto? Il nome più riconosciuto, il nome più conosciuto nel mondo, Marley Natural, appunto. To realize more fully in the world the many benefits of cannabis for the mind, body and spirit. Make way for the positive day. Il dibattito è serrato perché dopo le elezioni del 4 novembre, oltre al Canada, al Washington State, dove ci sono degli stati dove è già stato legalizzato l'uso della marijuana, anche in Alaska, in Oregon e a Washington DC, District of Columbia, che non è uno stato ma è comunque la capitale americana, in un modo o nell'altro la marijuana è stata legalizzata. Dico in un modo o nell'altro perché, per esempio, a Washington è stata autorizzata soltanto la crescita, diciamo, della pianticella per uso personale, ma non la commercializzazione. In Alaska si è deciso di non penalizzarla, quindi è possibile utilizzare la marijuana senza avere alcuna penalizzazione e sono consentite alcune forme di commercializzazione, e così via, così via. Ci sono poi stati come il Colorado che sono molto più avanti, tra virgolette, nel senso che c'è addirittura ci sono i negozi, ci sono i biscotti alla marijuana. Il messaggio è che piano piano in America la marijuana sta diventando normale, e siccome quello che succede in America poi magari succederà qua, volevo parlarne oggi con qualcuno che potesse darci anche dei commenti qual è la posizione italiana. Ma prima vorrei darvi rapidamente una carrellata di questo dibattito, così vista attraverso gli occhi di alcune persone. Per esempio Mark Kleinman, che è un professore di public policy alla USLA, e dice la legalizzazione può essere per l'uso personale, ma guai se questo porta alla commercializzazione, perché la commercializzazione significa poi cercare di fare dei profitti, significa aumentare il consumo magari a coloro che non l'avrebbero usata. Steve Fox, Executive Director del Council Responsible for Cannabis Regulation, invece è assolutamente favorevole e fa un confronto con l'alcol. Dice guai a rendere la marijuana più difficile da consumare dell'alcol, perché anzi noi dovremmo raggiungere un obiettivo, e cioè quello di sostituire l'alcol con la marijuana. Racial Justice, Dr. Malik Burnett del Drug Policy Alliance, sostiene che invece la legalizzazione può essere molto utile per tassare la marijuana e usare i proventi, è afroamericano il signor Burnett, usare questi proventi per aiutare i quartieri che sono in maggiore difficoltà, nelle inner cities, dove ci sono magari migliaia di giovani che sono stati messi in prigione per traffico di droga, magari per traffico di marijuana, non riescono a trovare un lavoro. Dunque c'è un quadro, un dibattito molto attivo. Io con me ai microfoni di America 24 il senatore Carlo Giovanardi, che è stato responsabile nel governo Berlusconi per la delega per la tossicodipendenza. Buongiorno senatore. Sì, buongiorno. Ecco, senatore, lei ha sentito un po' quello che ho detto, ha dato un po' il quadro anche di questo dibattito. So che lei, come dire, non è esattamente favorevole alla legalizzazione della marijuana, ma come reagisce a quello che sta capitando in America? Allora, per certi aspetti l'America è molto più indietro di noi. Quando sono stato a Washington nel 2011 a firmare l'accordo Italia e Stati Uniti proprio in tema di collaborazione reciproca in materia di droga, abbiamo rilevato che mentre in Italia il consumo personale è depenalizzato totalmente da decenni, negli Stati Uniti, in tantissimi stati, basta essere trovato con uno spinello in tasca, si va in carcere. Quindi da noi invece il consumo è depenalizzato, anche se c'è il ritiro della patente, del porto d'armi o del passaporto, mentre lo spaccio viene criminalizzato. Quindi se gli Stati Uniti vogliono adeguarsi al fatto nostro italiano, che consideriamo il tossicodipendente una vittima, un malato da curare, lo spacciatore un criminale, mi sta benissimo. Se no, beh, loro in realtà qui stanno per contenere lo spaccio, per evitare che la droga costi 100, che ci siano profitti illegali e così via, la legalizzano in modo da... Vogliono andare avanti rispetto all'Italia nel senso di legalizzarla, sono totalmente contrario, perché capisco la sete di profitto delle multinazionali che pensano, come nella guerra dell'oppio, sono cose antiche, la Cina venne devastata, un intero continente, proprio dall'idea di conquistarla commercialmente attraverso l'oppio, infatti in Cina sono severissimi con la droga perché sanno che la commercializzazione e la pubblicizzazione delle sostanze portano dei devastanti risultati a livello sanitario, a livello sociale, a livello economico. Però, visto che la direzione è quella, secondo lei il limite qual è? È quello di non commercializzarla e dunque certo, contro il profitto, ma sì all'uso personale oppure proprio niente allora, di niente? Io sarei per, come in Italia, depenalizzare l'uso personale, perché chi consuma, il semplice consumatore, lo ripeto, bisogna curarlo. Magari in comunità, noi abbiamo una grande organizzazione per recuperare i tossicodipendenti, ma l'idea del commercio implica, il mercato implica l'interesse a moltiplicare il numero dei consumatori, avere sempre più consumatori di cannabis, che già di per sé dà dei danni cerebrali, ma che poi, come sanno tutti, è la porta d'ingresso ad altre droghe. Allora, capisco che le multinazionali poi, perché devono fare profitto, tenderanno a aumentare a dismisura il numero di coloro che consumano le sostanze, ma passeremmo, come in Italia, dal 3% di persone più o meno che consuma droga a un 25% che consuma tabacco, e questa sarebbe una cosa estremamente negativa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!